America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Raj Rajaratnam, a former billionaire Wall Street titan, has been convicted of 14 felony charges, alleging he made a fortune off insider trades. 14 capi d'accusa, avete sentito l'annunzio in diretta televisiva. Ieri un po' tutte le reti, giornali, siti internet sono stati presi da questo verdetto. Una giuria in tribunale qui a New York ha considerato Raj Rajaratnam colpevole di tutti i capi d'accusa di insider trading, dunque di aver fatto compravendita di titoli in borsa approfittando di informazioni riservate. La dimensione di questo caso è storica, vorrei chiarirlo subito, ce ne occuperemo oggi a tutto campo perché si sono aperte in qualche modo delle nuove problematiche e questo signore Raj Rajaratnam, che è originario di Sri Lanka, una storia leggendaria, era diventato uno dei più ricchi investitori a Wall Street. Pensate che Forbes gli attribuisce una fortuna di 1,3 miliardi di dollari. Da ieri, giorno del verdetto di questa giuria, è già entrato nella mitologia dei grandi corrotti di Wall Street. Eppure in questo verdetto c'è qualche cosa di più preoccupante rispetto ai casi celebri del passato di cui vi parlavo. Ce ne sarebbero anche altri, naturalmente. Quello che c'è è che c'è una connivenza nuova fra questo hedge fund e i vertici di grandi aziende. Intanto, quanti altri hedge fund hanno creato una rete di informatori al di sopra di ogni sospetto? Quanti sono riusciti ad avere in libro paga? Beh, personaggi davvero di altissimo livello, perché qui stiamo parlando, per esempio, di un consigliere di amministrazione di Goldman Sachs, di un alto funzionario dell'IBM, di un consulente della McKinsey, insomma, potrei continuare in questa lista. Ci sono una trentina, appunto, di nomi eccellenti che sono stati coinvolti in questo scandalo. 24 sono già indagati, 21 hanno già espresso una dichiarazione di colpevolezza. Il procuratore federale Preet Bharara è entrato anche lui in qualche modo nella storia e ha ricostruito nel dettaglio tutti gli aspetti di insider trading, di collusione, di connivenza tra il finanziere, il fondatore del Galleon Fund e i suoi informatori. Ecco, naturalmente questo ci pone due interrogativi di fondo. Il primo, direi, è evidente e riguarda una considerazione generale, perché se da una parte è apprezzabile che si riesca a colpire facilmente, come in questo caso, operazioni di insider trading, non posso non rilevare che non si è ancora riusciti a portare davanti alla giustizia neppure una delle grandi banche o uno dei grandi protagonisti della crisi del 2007-2009. E poi c'è un secondo interrogativo: quale dinamica può convincere grandi manager a tradire il loro rapporto fiduciario con azionisti o con clienti? Perché Rajaratnam arriva in America nel 1981, arriva da Sri Lanka, dove era nato e cresciuto, va a studiare alla Wharton School of Business, che è una delle più prestigiose business school in America, alla Pennsylvania University, entra a lavorare in una piccola banca d'affari, si specializza nel settore high tech e poi diventa sempre più credibile perché è molto intelligente, molto bravo, a grande comunicativa, e a un certo punto decide di mettersi per conto suo e nel 97 nasce questo Galleon Group, che nel tempo poi ha trovato clienti importantissimi, fondo pensione del New Jersey per esempio, la UBS, e in totale gestiva 7 miliardi di dollari. Allora qui gli ingredienti sono semplici, e cioè Rajaratnam è un uomo brillante, generoso, diventa uno degli uomini più ricchi d'America, nella classifica di Forbes aveva accumulato una fortuna di 1,3 miliardi di dollari, e quindi clienti importanti, uno dei più importanti hedge funds americani, una ricchezza personale senza limiti, diventano gli ingredienti che poi portano accesso insomma a quell'aura di credibilità che conquista. According to two complaints filed in US District Court, insider trading by hedge funds Galleon, Newcastle and Intel Capital took place in shares of Hilton Hotels, Google and IBM, among other stocks. Ecco, avete sentito una breve descrizione dei suoi affari e ve ne racconto uno. Per esempio, quando ci fu qualche anno fa un acquisto imminente di ATI da parte di Advanced Microsystems, uno degli informatori di Raj, un tale Anil Kumar, Kumar lo chiamò per informarlo. Ma Anil Kumar non era una persona qualunque, è un consulente, era, perché ormai non lo è più naturalmente, ma era un consulente della prestigiosissima McKinsey, che è una delle società di consulenza più importanti del mondo. E dunque lui aveva informazioni sul suo cliente che si stava per preparare a questo acquisto e le ha girate a Raj, ma non per semplice amicizia. In realtà c'era un accordo fra i due. Raj aveva aperto un conto all'estero a nome di Anil Kumar, dove versava ogni anno $500,000, e questo conto era intestato, pensate, alla domestica di Anil Kumar. First, with alleged profits of more than $20 million, this case represents the largest hedge fund insider trading case ever charged. Questa che vi ho fatto ascoltare invece è la voce di Barara, il procuratore federale di New York che ha fatto le incriminazioni. Però si apre su questo fronte una piccola polemica. Vediamo perché. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want to. Ieri è intervenuto nel dibattito Charles Ferguson, il regista di The Inside Job, che è uno dei documentari capolavoro sulla crisi del 2007-2009. Se non l'avete visto, vi consiglio sicuramente di andarlo a vedere. Ebbene, Ferguson ha apprezzato naturalmente le gesta di Barara, ha detto che l'insider trading va colpito, però si è domandato: ma come mai le grandi banche continuano a non essere colpite? Per esempio, la settimana scorsa lo stesso Barara sporta una denuncia civile contro Deutsche Bank perché la banca aveva mentito sulla qualità di certi mutui che gestiva per conto del governo americano. Ecco, la domanda di fondo che facciamo noi, che si fa Ferguson e che si fanno mille altri: solo civile? Come mai non era stata sporta una denuncia penale? E dunque Barara si è giustificato spiegando proprio che in quel caso non vi erano le prove che gli consentivano di procedere appunto con una denuncia penale, e dunque è andata avanti con una semplice denuncia civile. Comunque sia, l'operazione è chiusa, ci sarà naturalmente un appello, ma non credo che vi sarà alcuna possibilità per sfuggire alla giustizia da parte di Raj Rajaratnam. La sua avventura l'ha vissuta, la sentenza la conosceremo probabilmente in luglio, si pensa che avrà almeno 19 o 20 anni di prigione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante del New Jersey, Dave Hoke, conosciuta come Memory Tapes, ha annunciato l'uscita di un nuovo album il 5 luglio, si chiamerà Player Piano. Vi faccio ascoltare una canzone che mi ha colpito molto, Wait in the Dark. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.